Capitolo 5. Quella sera a teatro Catherine non fu tanto impegnata a ricambiare i cenni del capo e i sorrisi della signorina Thorpe, anche se tale attività certo occupava gran parte del suo tempo, tanto da dimenticare di cercare con lo sguardo il signor Tilney fino all'ultimo palco visibile, ma inutilmente. Il signor Tilney non amava la prosa più di quanto amasse la Pamprum. Sperò di essere più fortunata il giorno dopo. E quando il suo desiderio che facesse bel tempo fu esaudito e lei vide che era una bella mattinata, non ebbe più nessun dubbio. Una bella domenica a Bath, infatti, svuota tutte le case e sembra che il mondo intero in questa occasione non faccia altro che andare a passeggio per congratularsi con il prossimo di una così bella giornata. Non appena il servizio religioso fu finito, la famiglia Thorpe e la famiglia Allen si affrettarono a riunirsi e, dopo essere rimaste nella Pump Room abbastanza a lungo da scoprire che la folla era insopportabile e che non si riusciva a vedere una sola persona distinta, cosa della quale tutti regolarmente si sorprendono tutte le domeniche, si affrettarono verso il Crescent per respirare l'aria fresca di una compagnia migliore. Qui Catherine e Isabella, sotto braccio, gustarono di nuovo le dolcezze dell'amicizia e fecero un po' di conversazione. Parlarono molto e con piacere, ma la speranza di Catherine di rivedere il suo cavaliere fu di nuovo delusa. Non si riusciva a incontrarlo in nessun posto, qualsiasi ricerca era ugualmente vana, sia durante le passeggiate del mattino che nelle riunioni serali. Non si riusciva a trovarlo né alle upper rooms, né alle lower rooms, né ai balli di gala, né a quelli informali, né tra quelli che andavano a piedi, a cavallo o in calesse. Il suo nome non era nel registro della Pump Room e anche la curiosità dovette arrendersi. Evidentemente aveva lasciato Bath. D'altronde egli non aveva accennato a una permanenza tanto breve. Questo alone di mistero che tanto si addice a un eroe conferì alla sua persona e ai suoi modi un fascino nuovo nell'immaginazione di Catherine e accrebbe la sua ansia di saperne di più sul suo conto. Dalle Thorpe non poté sapere niente, poiché quando avevano incontrato la signora Allen erano a Bath soltanto da 2 giorni. Era comunque un argomento su cui Catherine si soffermava spesso, conversando con la sua cara amica, che la incoraggiava in tutti i modi a non smettere di pensare a lui. L'effetto che egli aveva prodotto sull'immaginazione di lei non rischiò quindi di svanire. Isabella era sicurissima che egli doveva essere un giovanotto affascinante ed era ugualmente sicura che doveva aver trovato deliziosa la sua cara Catherine e che quindi sarebbe tornato presto. Le piaceva ancora di più perché era un ecclesiastico, dato che doveva confessare di avere un debole per quella professione, e mentre diceva così le sfuggiva qualcosa di molto simile a un sospiro. Forse Catherine fece male a non chiederle la causa di quel dolce turbamento, ma non aveva sufficiente esperienza nelle sottigliezze dell'amore o nei doveri dell'amicizia per sapere quando la situazione richiede una bonaria presa in giro o quando sia il caso di insistere per ottenere una confidenza. La signora Allen si poteva ora dire pienamente felice, veramente soddisfatta di Bath. Aveva trovato delle conoscenze ed era stata anche così fortunata da trovarle nella famiglia di una rispettabilissima vecchia amica. E per completare la sua fortuna, si era resa conto che queste amiche vestivano assai più modestamente di lei. La sua esclamazione giornaliera non era più "Vorrei che conoscessimo qualcuno a Bath", ma "Come sono contenta di aver incontrato la signora Thorpe!" E il suo entusiasmo nel promuovere i contatti tra le due famiglie era pari a quello della sua giovane protetta ed Isabella. Non era soddisfatta della giornata se non ne passava la maggior parte con la signora Thorpe, in quella che loro chiamavano conversazione, ma che era del tutto priva di scambio di opinioni e spesso anche di un argomento comune, poiché la signora Thorpe parlava principalmente dei suoi figli e la signora Allen dei suoi vestiti. Il progredire dell'amicizia tra Catherine e Isabella fu rapido quanto l'inizio era stato caloroso, e ogni stadio di affetto crescente fu superato così in fretta che presto non ci fu più nessuna prova da fornire ai loro amici o a se stesse. Si chiamavano per nome, passeggiavano sempre sotto braccio, si appuntavano reciprocamente lo strascico per danzare e non volevano essere divise durante le figure della danza. E se una mattina piovosa le privava di altri divertimenti, erano comunque decise a vedersi, sfidando il fango e la pioggia, e si chiudevano in casa a leggere romanzi insieme. Sì, romanzi, poiché non adotterò quell'abitudine tanto poco diplomatica e meschina, così diffusa tra i romanzieri, di svilire con la loro sprezzante censura proprio quelle pubblicazioni che loro stessi stanno contribuendo ad aumentare. Essi si uniscono infatti ai loro più grandi avversari nel riversare gli epiteti più duri su simili opere e non permettono quasi mai che vengano lette dalla loro stessa eroina che, se per caso prende in mano un romanzo, sicuramente ne sfoglierà le pagine insulse con disgusto. Ahimè, se l'eroina di un romanzo non offre il proprio appoggio all'eroina di un altro, da chi potrà poi aspettarsi protezione e stima? Non sono d'accordo. Lasciamo che siano i critici a bistrattare queste effusioni della fantasia e a parlare all'uscita di ogni nuovo romanzo con accenti ormai triti della robaccia che fa gemere i torchi. Non abbandoniamoci, siamo un unico corpo ferito. Anche se il piacere offerto dalle nostre opere è stato più diffuso e costante di quello di qualsiasi altra corporazione letteraria del mondo, nessun genere è stato ugualmente denigrato. Per presunzione, per ignoranza o per essere alla moda, i nostri nemici sono numerosi quasi quanto le nostre lettrici e i nostri lettori. E mentre migliaia di penne elogiano il talento del novecentesimo autore di un compendio di storie dell'Inghilterra, o di chi mette insieme e pubblica in un volume una dozzina di versi di Milton, di Pope, di Prior, un articolo dello Spectator e un capitolo di Sterne, sembra che sia un desiderio quasi generale denigrare la figura e sottovalutare la fatica del romanziere e della romanziera e disdegnare le opere che a loro credito possono vantare solo genio, spirito e buon gusto. Oh, non leggo romanzi. Oh, è raro che sfogli un romanzo. Oh, non credetemi tipo da leggere romanzi. Non c'è male per essere un romanzo. Oh, è la solita cantilena. E cosa leggete, signorina? Oh, niente, è solo un romanzo, replica la giovinetta mentre depone il libro con affettata indifferenza o con una momentanea vergogna. È solo Cecilia o Camilla o Belinda, cioè è solo un'opera in cui si dispiegano le più alte doti dell'intelletto e nel linguaggio più squisito viene esposta al mondo la più profonda conoscenza della natura umana, la descrizione più felice della sua varietà, la profusione più vivace di spirito e humor. Ma se la stessa signorina, invece che con un'opera di questo tipo, fosse stata impegnata con il volume dello Spectator, con che orgoglio avrebbe esibito il libro e ne avrebbe detto il titolo, anche se è del tutto improbabile che lei si potesse appassionare a una parte qualsiasi di quella voluminosa pubblicazione il cui argomento, il cui stile non devono ripugnare a una persona di buon gusto. Di fatto, però, quegli articoli consistono molto spesso nell'esposizione di circostanze improbabili, di personaggi innaturali, di argomenti di conversazione che non interessano più nessuno al mondo. E anche il linguaggio è spesso così grossolano da non dare un'idea molto favorevole dei tempi che riuscivano a sopportarlo. Capitolo 6. La seguente conversazione che si svolse una mattina nella pump room tra le due amiche, quando si conoscevano da 8-9 giorni, servirà a chiarire quanto caloroso fosse il loro affetto e quale delicatezza, discrezione, originalità di pensiero e gusto letterario rendessero quell'affetto pienamente giustificato. Avevano un appuntamento e, dato che Isabella era arrivata quasi 5 minuti prima dell'amica, le sue prime parole, naturalmente, furono: «Tesoro, ma come mai hai fatto così tardi? È almeno un secolo che ti aspetto!» «Oh, davvero? Mi dispiace molto, ma veramente pensavo di essere perfettamente in orario. È l'una precisa. Spero che tu non sia qui da molto. Oh, da almeno 10 secoli. Da mezz'ora senz'altro. Ma ora andiamoci a sedere all'altro capo della sala e divertiamoci. Ho 100 cose da dirti. Prima di tutto, temevo tanto che piovesse proprio stamattina che volevo uscire. Il tempo sembrava molto minaccioso e sarebbe stata una tale angoscia restare a casa. Sai, nella vetrina di un negozio di Milsom Street ho appena visto il cappellino più carino del mondo, molto simile al tuo, solo con i nastri rosso vivo invece che verde. Ci ho lasciato gli occhi. Ma mia carissima Catherine, che cosa hai fatto tutta stamattina? Sei andata avanti con Udolfo? Nota: Udolfo è uno dei romanzi di Ian Radcliffe. Oh sì, rispose Catherine, non ho fatto che leggere da quando mi sono svegliata e sono arrivata al velo nero. Davvero stupendo! Non voglio dirti che cosa c'è dietro il velo nero per tutto l'oro del mondo, ma tu non muori dalla voglia di saperlo? Oh sì, e come? Che cosa ci può essere? Non dirmelo, non dirmelo, non voglio sapere niente. Qualcosa mi dice che deve esserci uno scheletro. Sono sicura che è lo scheletro di Laurentina. Ma che bel libro, passerei tutta la vita a leggerlo, ti assicuro che se non fosse stato per vedere te non l'avrei abbandonato per tutto l'oro del mondo. Oh, tesoro, quanto ti sono riconoscente! E quando avrai finito Udolfo leggeremo insieme l'italiano e ti ho compilato una lista di altri 10 o 12 libri dello stesso tipo. Davvero? Oh, che bello! E quali sono? Ti leggo subito i titoli, eccoli, leggo dal mio taccuino. Il castello di Wolfenbach, Clermont, misteriosi presentimenti, il negromante della foresta nera, campana di mezzanotte, l'orfana del Reno e orridi misteri. Questi ti dureranno per un po'. Oh, sì, benissimo, ma sono proprio tutti romanzi dell'orrore? Sei sicura che siano tutti romanzi dell'orrore? Sicurissima! Perché una mia cara amica, una certa signorina Andrews, una ragazza così dolce, una delle più dolci creature del mondo, li ha letti tutti. Vorrei che la conoscessi, la troveresti deliziosa. Si sta facendo a maglia un mantello che è un amore. Io la trovo bella come un angelo e il fatto che gli uomini non la ammirino mi fa letteralmente infuriare. Faccio certe scenate. Le fai delle scenate? Perché non la ammirano? Sì, certo, non c'è niente che non farei per una vera amica. Non sono capace di voler bene a metà, non fa parte della mia natura. Quando mi affeziono sono addirittura esagerata. Pensa che quest'inverno a una delle nostre riunioni dissi al capitano Hunt che seppure mi avessi importunato tutta la sera, non avrei ballato con lui a meno che prima non ammettesse che la signorina Andrews è bella come un angelo. Sai, gli uomini credono che siamo incapaci di vera amicizia e io sono decisa a dimostrare loro il contrario. Quindi se sentissi qualcuno parlare di te con leggerezza, mi infiammerei in un attimo. Ma questo è del tutto improbabile perché tu sei proprio il tipo di ragazza che piace agli uomini. Oh, mia cara, gridò Catherine arrossendo. Come puoi dire questo? Via, via, so quello che dico. Tu sei così vivace. Che è proprio quello che manca alla signorina Andrews, perché devo confessare che ha un non so che di terribilmente insipido. Oh, devo dirti che ieri, non appena ci siamo lasciati, ho visto un giovane che ti guardava in un modo così appassionato. Sono sicura che è innamorato di te. Catherine arrossì e negò di nuovo. Isabella rise. Oh, è verissimo, sul mio onore. Ma so come stanno le cose. A te è indifferente l'ammirazione di tutti. Eccetto quella di un certo signore di cui non faremo il nome. In realtà, beh, non posso criticarti. Parlando più seriamente, i tuoi sentimenti si capiscono facilmente. Quando il cuore nutre un affetto autentico, sa benissimo quanto poco possa piacere dare attenzione a chiunque altro. È così insipido, così privo di interesse tutto quello che non ha rapporto con l'oggetto amato. Posso comprendere perfettamente i tuoi sentimenti. Oh, ma tu non dovresti convincermi del fatto che penso tanto al signor Tilney, perché forse non lo rivedrò più. Non rivederlo più? Tesoro mio, non parlarne nemmeno. Sono sicura che saresti più infelice se lo pensassi. No, davvero. Non pretendo di affermare che non mi sia piaciuto molto, ma finché ho Udolfo da leggere, sento che nessuno può rendermi infelice. Oh, quel terribile velo nero, mia cara Isabella, sono sicura che dietro ci deve essere lo scheletro di Laurentina. Mi sembra così strano che tu non abbia mai letto Udolfo, ma suppongo che la signora Morland sia contraria ai romanzi. No, anzi, lei stessa legge molto spesso Sir Charles Grandison. Ma è un libro davvero orribile, non trovi? Ricordo che la signorina Andrews non è riuscita ad arrivare in fondo al primo volume. Certo, non è come Udolfo, eppure io lo trovo molto interessante. Davvero? Mi sorprendi, pensavo fosse illeggibile. Ma mia carissima Catherine, hai deciso quale acconciatura adotterai stasera? A ogni modo, sono decisissima a vestirmi esattamente come te. Sai, questo a volte gli uomini lo notano. Oh, Ma che importanza ha? Disse Catherine con la massima innocenza. Importanza? Oh, cielo! Per me è una regola non fare mai caso a ciò che dicono. Sono molto spesso terribilmente impertinenti, se non li tratti con spirito e non mantieni le distanze. Davvero? Veramente questo non l'ho mai notato. Si comportano sempre benissimo con me. Oh, si danno tante di quelle arie. Sono le creature più presuntuose del mondo. E si credono così importanti? A proposito, l'ho pensato 100 volte, ma mi sono sempre dimenticata di chiederti qual è il tipo di uomo che preferisci. Ti piacciono di più i bruni o i biondi? Ma non saprei. Non ci ho mai pensato molto. Una via di mezzo, credo. Castani, né biondi né troppo scuri. Benissimo, Catherine. È proprio lui. Non ho dimenticato la tua descrizione del signor Tilney. Pelle olivastra, occhi scuri, capelli castani. Bene, i miei gusti sono diversi, preferisco gli occhi chiari e per quanto riguarda il colorito, sai, il mio ideale è una carnagione pallida. Non tradirmi se ti capitasse di incontrare qualcuno di tua conoscenza che corrisponde a questa descrizione. Tradirti? Che cosa vuoi dire? No, non tormentarmi, credo di aver parlato troppo, cambiamo argomento. Catherine? Rimase perplessa, ma assecondò l'amica e dopo essere rimasta silenziosa qualche minuto, stava per tornare all'argomento che in quel momento la interessava più di qualsiasi altra cosa al mondo, lo scheletro di Laurentina, quando l'amica glielo impedì, esclamando: "Per l'amor del cielo, allontaniamoci da questo lato della sala. Sai, ci sono due giovanotti odiosi che mi fissano da mezz'ora. Mi mettono proprio in imbarazzo. Andiamo a dare un'occhiata ai nomi dei nuovi arrivati. Non oseranno seguirci fin là." Si allontanarono in direzione del registro dei nuovi arrivi e mentre Isabella esaminava i nomi, Catherine ebbe il compito di sorvegliare i movimenti di quei giovanotti così pericolosi. "Non stanno venendo da questa parte, vero? Spero non siano tanto impertinenti da seguirci. Dimmi se vengono, per favore. Non ho nessuna intenzione di alzare lo sguardo." Dopo qualche istante, Catherine le assicurò, credendo sinceramente di fare cosa gradita, che non avevano più motivo di sentirsi a disagio, dato che i signori avevano appena lasciato la Pump Room. "Oh, e da che parte sono andati?" disse Isabella girandosi in fretta. "Uno era davvero un bel giovane. Ma si sono diretti verso Piazza del Duomo? Bene, sono terribilmente felice di essermi liberata di loro. E ora che ne dici di venire agli Edgar's Building a vedere il mio cappellino nuovo? Hai detto che volevi vederlo?" Catherine acconsentì volentieri. "Però," esitò, "potrebbe capitarci di incontrare per strada i due giovanotti." "Oh, non importa. Se ci sbrighiamo li sorpasseremo in un momento e io sto morendo dalla voglia di mostrarti il mio cappellino." "Ma se aspettiamo qualche minuto non ci sarà nessun pericolo di incontrarli," disse Catherine ingenuamente. "Ti assicuro che non farò loro un simile onore. Non sono abituata a trattare gli uomini con tanta considerazione. È così che si abituano male." Catherine non aveva argomenti da opporre a un ragionamento come quello, quindi, per dimostrare l'indipendenza della signorina Thorpe e la sua risoluzione a umiliare l'altro sesso, si incamminarono immediatamente, con il passo più veloce possibile, all'inseguimento dei due giovanotti.